sé. Scrivo la storia di chi è un volto senza anima, che vive la merda, aspetta stelle in una lacrima. A me se il mondo cade lascio che il mio cuore parta. Se stringo il mio vento scrivo cieli di carta. Qua ossida l'anima, il cielo della mattina lega i sogni ad un pallone tra i parchi dell'eroina. Padre, stringi i peccati nelle mani di chi ho ucciso. Ora che fredde lacrime solcano questo viso, il tempo distrugge i cuori, brucia il volto, la speranza di chi ha perso gli ali sugli cieli in una stanza. Versi tra le mie mani, so di non poter infrangerli. So che strappa stelle, lacera il cuore degli angeli. Vorrei stringere il sole, poi stelle sopra le carceri. Fra sussurro versi tra i volti di questi martiri. Se macchio le ali col peso di queste pagine, so che strappa la luce tra il freddo di queste lacrime. Scrivo fuoco nelle notti sulle grida dell'asfalto, pagine di vita tra le lacrime di un pianto. Prigionieri inermi in una vita troppo breve, come note silenziose sotto il peso della neve. Scrivo fuoco nelle notti sulle grida dell'asfalto, pagine di vita tra le lacrime di un pianto. Prigionieri inermi in una vita troppo breve, come note silenziose sotto il peso della neve. Dicono che brucia respiro nel vuoto di questi abissi. Fra strappo la luce negli occhi dei crocifissi. Il cielo trafigge i cuori tra i cortili di un palazzo. Sradica lune dei cieli a chi non ha mai avuto un cazzo. Se brucia ricordi nel fuoco di questo nome, la verità, la fame lava il piombo di Corleone. So che la luce è morta e questo cielo non ci aspetta. Solleva il ferro, fra trasforma lacrime in vendetta. Se guardo negli occhi la vita mentre mi fu, la stringo forte, fra colpisco spettri nella notte. So che stendo i miei angeli fuori alle mie parole. Se decapita anime, strappa corona al sole. Qua soffoca luce sotto il mio cielo glaciale. Non vi è fama fra il suo romanzo criminale. Spoglia stelle dei balconi, insegue gli attimi scomparsi. Saluta il cielo, fra adesso è tardi per voltarsi. Scrivo fuoco nelle notti sulle grida dell'asfalto, pagine di vita tra le lacrime di un pianto. Prigionieri inermi in una vita troppo breve, come note silenziose sotto il peso della neve. Scrivo fuoco nelle notti sulle grida dell'asfalto, pagine di vita tra le lacrime di un pianto. Prigionieri inermi in una vita troppo breve, come note silenziose sotto il peso della neve. Man, brucia il silenzio tra i volti privi di fede. So che quel cuore arriva dove l'occhio non vede. Se sconfino mondi tra incubi senza fine, abbiamo castigato un Cristo tra corone di spine. Infame, seppellisce suono tra il vento di quelle voci. So, ossida il piombo e chioda lacrime alle croci. Ridalo forte, fra il silenzio non ha valore. Se per queste lacrime il mondo perde colore, strappa l'anima fra buca il volto del sentimento di chi non ha più l'aria e strappa la voce del vento. La strada massacra il volto degli angeli in questo giorno. I miei carnefici alle porte, so che Dio non ha ritorno. So che esplode il fuoco e stende corpi per la grana. E leggi spettri dell'asfalto negli occhi di una puttana. La mia gente respira merda e questo non è un segreto. Dio, quante cose cambierei se tornassi indietro. Se tornassi indietro. Se tornassi indietro.